Siamo con Cinzia Masotina dello Scrittoio per parlare dei documentari in tour a partire dai festival. La prossima tappa è al Cinema Farnese a Roma il 5 e 6 giugno. Cinzia, ben trovata. Ciao Federico e ciao a tutti. Sì, ecco, diciamo che è un'altra sfida che però già nel suo inizio sembra dare delle buone possibilità di riuscita. È una nuova iniziativa che nasce dal Trieste Film Festival, che come tu sai Federico è sicuramente il primo appuntamento italiano con il cinema dell'Europa centro-orientale, sì. E con lo Scrittoio che da sempre è attento al cinema di qualità, al cinema d'autore, al cinema indipendente. E un tour che ha avuto già un suo primo battesimo a Milano, in questa nuova realtà milanese che è quella del Cinemino, e che adesso approda a Roma al Cinema Farnese, quindi parto subito con quando e dove, al Cinema Farnese, il Campo dei Fiori, martedì 5 giugno e mercoledì 6 giugno, per poi proseguire sempre a Roma all'Apollo 11, sabato 9, e con la proiezione di alcuni documentari estremamente interessanti che hanno vinto non soltanto alcuni premi al Trieste Film Festival 29ª edizione, ma anche festival internazionali molto importanti. Perché questa iniziativa? Questa iniziativa perché i festival sono chiamati a sostenere il prodotto filmico anche al di là della vetrina festivaliera e al tempo stesso si dà la possibilità al pubblico ad accedere magari con in micro momenti, ma quello che è fondamentalmente il lavoro di un festival, trovare, sostenere nuove autorialità e dare la possibilità di vedere delle opere che magari non ci sarebbe altra occasione perché non trovano una distribuzione precisa in Italia o una possibilità di visione allargata. E quest'anno ovviamente è il primo anno, è un anno sperimentale come ho detto, quindi Milano, Roma, ma presto ci sarà anche Udine, Verona, Torino, Ferrara con l'autunno, e i documentari che quest'anno portiamo sono estremamente interessanti perché il primo che inaugura proprio martedì 5 giugno alle 18.30 al Farnese e poi alle 10.30 è The Other Side of Everything di Mila Turajlić, che molti ricorderanno per un piccolo cult che era Communist, che appunto parlava dell'essere, del passaggio della ex Jugoslavia e di quanti ancora avevano una sede comunista. Questo è un documentario molto interessante perché attraverso il racconto di una casa si mette in scena tutti gli ultimi eventi della ex Jugoslavia, proprio a partire dalla fine del regime comunista, per andarsi poi a incrociare purtroppo con le sanguinose, cioè i sanguinosi fatti della guerra, purtroppo ancora vicina e di cui si è parlato veramente poco. È tutto all'interno di una casa che è abitata da un personaggio, da una donna, attivista da sempre dei diritti civili e che quindi ha attraversato questo lungo percorso e ha visto quella casa portare i segni della sua vita ma anche della vita del suo paese. Poi abbiamo un altro documentario veramente interessante che è Wonderful Losers di Arunia Smateli, che peraltro ha vinto anche il Festival del Cinema di Varsavia, MISC, e ha vinto anche al 29esimo Trieste Film Festival. Sarà proiettato alle 20.30 ed è un racconto veramente quasi a cardiopalma di veri eroi sconosciuti più, che sono i gregari del ciclismo. E questi gregari sono seguiti lungo tutto il Giro d'Italia. Quindi sappiamo, si è appena concluso, peraltro anche con grandissimo successo, e sapere cosa vuol dire essere gregari, ecco, direi che questo documentario lo racconta con grande attenzione e anche con grande poesia. Dopodiché, il 6 giugno alle 18.30 e poi replicato nuovamente alle 22.30 abbiamo Generation 68 di Nenad Puoski, un diciamo artista multimediale e che di nuovo ci porta in quei paesi della, insomma, così vicini a noi, ma come hanno vissuto questo momento importante fondamentale per la storia europea e non solo, all'interno di quelle che erano evidentemente le costrizioni di un regime. E poi è l'ora di un bellissimo documentario italiano di Francesca Lisci, che ha vinto non a caso il premio dedicato al grande e indimenticabile Corso Salani, che è L'uomo con la lanterna, che mette in scena una storia particolarissima, personalissima e familiare, ma che gli spettatori potranno vedere, ci parla veramente di mondi lontani. Uno zio mai conosciuto, che lascia dei bauli in una cantina, da questi bauli emerge la Cina degli anni 30, quindi una Sardegna che non è un'isola in mezzo al Mediterraneo, ma veramente è al centro del mondo. E questa è la tappa romana. Ok, allora, considerato che tutto parte dal Trieste Film Festival, ti chiedo, Cinzia, se questi documentari in tour sono tutti europei? Sono tutti europei. Okay. Questa attenzione che appunto, come sai, Trieste pone nei confronti del cinema dei Balcani, sì, dei nostri vicini. Ricordiamolo che il Trieste Film Festival, e con i suoi direttori artistici Nicoletta Romei e Fabrizio Grosoli, hanno rappresentato in certi anni, anche perché Trieste sappiamo è città di frontiera da sempre, l'unico momento in cui intellettuali dei due blocchi potevano incontrarsi, e diciamo con questo spirito ancora il Trieste Film Festival va avanti, perché c'è molta produzione, è veramente interessante, che viene prodotta e che in Italia purtroppo non arriva. E questo è il perché abbiamo deciso di sostenere questa iniziativa. Sì, sì. Senti, allora, dicevamo Milano e Roma, i titoli in tour sono quelli che ci hai elencati? Sì, quest'anno al momento. Sì, che okay, abbiamo deciso di fare una prova sperimentale, sì, un primo anno, a cui il prossimo anno seguirà invece un tour più nutrito e, come anticipazione, lo dico anche come augurio di questo, diciamo, sodalizio tra il Trieste Film Festival e lo scrittoio, è quello di dare un premio preciso con una giuria selezionata ad hoc proprio per il Trieste Film Festival in tour. Quindi un premio che guardi sul serio al sostegno della distribuzione per quelli film e quelle cinematografie, quegli autori che solitamente in Italia non vengono appunto distribuiti. Allora, in chiusura, ci lasci tutti i riferimenti web per saperne di più? Assolutamente, allora potete vedere il programma oltre che sulla pagina Facebook dello scrittoio e del Trieste Film Festival Alpe Adria Cinema, e anche ovviamente il cinema Farnese Apollo 11 per quello che riguarda appunto Roma, ma anche vi invito a vedere il sito sia del Trieste Film Festival che è www.triestefilmfestival.it e scrittoio.net, da cui, e qua è l'altra cosa su cui noi puntiamo molto, c'è la possibilità da parte di esercenti, associazioni e quanti altri vogliano ospitare questo piccolo festival, così, questo tour del Trieste Film Festival, possono compilare un modulo e richiedere questi film di cui ti ho parlato. Benissimo. Cinzia, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto.